Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L'innominato andò alla lettiga, aprì lo sportello e con una certa gentilezza quasi timida, due cose nuove in lui, sorreggendo il braccio di Lucia, l'aiutò ad entrarvi, poi la buona donna. Slegò quindi la mula di Don Abbondio e l'aiutò anche lui a montare. «Oh, che degnazione!» disse questo e montò molto più lesto che non avesse fatto la prima volta. La comitiva si mosse quando l'innominato fu anche lui a cavallo. La sua fronte s'era rialzata, lo sguardo aveva ripreso la solita espressione di impero. I bravi che incontrava vedevano bene sul suo viso i segni di un forte pensiero, di una preoccupazione straordinaria, ma non capivano, né potevano capire più in là. Al castello non si sapeva ancor nulla della gran mutazione di quell'uomo, e per congettura, certo, nessun di coloro vi sarebbe arrivato. La buona donna aveva subito tirate le tendine della lettiga. Prese poi affettuosamente le mani di Lucia. S'era messa a confortarla con parole di pietà, di congratulazione e di tenerezza. E vedendo come, oltre la fatica di tanto travaglio sofferto, la confusione e l'oscurità degli avvenimenti impedivano alla poverina di sentir pienamente la contentezza della sua liberazione, le disse quanto poteva trovare di più atto a distrigare, a ravviare, per così dire, i suoi poveri pensieri. Le nominò il paese dove andavano. «Sì», disse Lucia, la quale sapeva che era poco discosto dal suo. «Ah, Madonna Santissima, vi ringrazio. Mia madre...» «La manderemo a cercar subito», disse la buona donna, la quale non sapeva che la cosa era già fatta. «Sì, sì, che Dio ve ne renda merito. E voi chi siete? Come siete venuta?» «Ma mandate il nostro curato», disse la buona donna, «perché questo signore, Dio, gli ha toccato il cuore, sia benedetto, ed è venuto al nostro paese per parlare al signor cardinale arcivescovo, che l'abbiamo là in visita, quel sant'uomo. E si è pentito dei suoi peccatacci e vuol mutar vita. E ha detto al cardinale che aveva fatta rubare una povera innocente, che siete voi, d'intesa con un altro senza timor di Dio, che il curato non m'ha detto chi possa essere.» Lucia alzò gli occhi al cielo. «Lo saprete forse voi», continuò la buona donna. «Basta. Dunque, il signor cardinale ha pensato che, trattandosi di una giovane, ci voleva una donna per venire in compagnia e ha detto al curato che ne cercasse una. E il curato, per sua bontà, è venuto da me. Oh, il Signore vi ricompensi della vostra carità. Che dite mai, la mia povera giovine? E m'ha detto il signor curato che vi facessi coraggio e cercassi di sollevarvi subito e farvi intendere come il Signore va salvata miracolosamente. Ah sì, proprio miracolosamente, per intercessione della Madonna. Dunque, che stiate di buon animo e perdonare a chi v'ha fatto del male e esser contenta che Dio gli abbia usata misericordia, anzi, pregare per lui, che oltre all'acquistarne merito, vi sentirete anche allargare il cuore.» Lucia rispose con uno sguardo che diceva di sì, tanto chiaro come avrebbero potuto far le parole e con una dolcezza che le parole non avrebbero saputa esprimere. «Brava giovine», riprese la donna. «E trovandosi al nostro paese anche il vostro curato, che ce n'è tanti tanti di tutto il contorno da mettere insieme quattro uffizi generali, ha pensato il signor cardinale di mandarlo anche lui in compagnia. Ma è stato di poco aiuto. Già l'avevo sentito dire che era un uomo da poco. ma in questa occasione ho dovuto proprio vedere che è più impicciato che un pulcin nella stoppa. E questo, domandò Lucia, questo che è diventato buono, chi è? Come? Non lo sapete? Disse la buona donna e lo nominò. Oh, misericordia! Esclamò Lucia. Quel nome, quante volte l'aveva sentito ripetere con orrore in più di una storia in cui figurava sempre, come in altre storie, quello dell'orco. E ora, al pensiero di essere stata nel suo terribile potere ed essere stata sotto la sua guardia pietosa, al pensiero di una così orrenda sciagura, di una così improvvisa redenzione, a considerare di chi era quel viso che aveva veduto burbero, poi commosso, poi umiliato, rimaneva come estatica, dicendo solo ogni poco: «Oh, misericordia!» «È una gran misericordia, davvero!» diceva la buona donna. «Deve essere un grande sollievo per mezzo mondo! A pensare quanta gente teneva sotto sopra, e ora, come m'ha detto il nostro curato, e poi solo a guardarlo in viso, è diventato un santo, e poi si vedono subito le opere». Dire che questa buona donna non provasse molta curiosità di conoscere un po' più distintamente la grande avventura nella quale si trovava a fare una parte non sarebbe la verità, ma bisogna dire a sua gloria che, compresa di una pietà rispettosa per Lucia, sentendo in certo modo la gravità e la dignità dell'incarico che le era stato affidato, non pensò neppure a farle una domanda indiscreta né oziosa. Tutte le sue parole in quel tragitto furono di conforto e di premura per la povera giovine. «Dio sa quant'è che non avete mangiato! Non me ne ricordo più, da un pezzo. Poverina, avrete bisogno di ristorarvi!» «Sì», rispose Lucia con voce fioca. «A casa mia, grazie a Dio, troveremo subito qualcosa. Fatevi coraggio, che ormai c'è poco». Lucia si lasciava poi cader languida sul fondo della lettiga, come assopita, e allora la buona donna la lasciava in riposo. Per Don Abbondio questo ritorno non era certo così angoscioso come l'andata di poco prima, ma non fu neppure esso un viaggio di piacere. Al cessare di quella pauraccia s'era sentito da principio tutto scarico, ma ben presto cominciarono a spuntargli in cuore cent'altri dispiaceri, come quando è stato sbarbato un grande albero il terreno rimane sgombro per qualche tempo, ma poi si copre tutto d'erbacce. Era diventato più sensibile a tutto il resto, e tanto nel presente quanto nei pensieri dell'avvenire non gli mancava purtroppo materia di tormentarsi. Sentiva ora, molto più che nell'andare, l'incomodo di quel modo di viaggiare al quale non era molto avvezzo, e specialmente sul principio, nell'ascesa dal castello al fondo della valle. Il lettighiero, stimolato da cenni dell'innominato, faceva andare di buon passo le sue bestie, le due cavalcature andavano dietro con lo stesso passo, onde seguiva che a certi luoghi più ripidi il povero Don Abbondio, come se fosse messo a leva per di dietro, tracollava sul davanti e, per reggersi, doveva puntellarsi con la mano all'arcione, e non osava però pregare che s'andasse più adagio, e dall'altra parte avrebbe voluto essere fuori di quel paese più presto che fosse possibile. Oltre di ciò, dove la strada era su un rialto, su un ciglione, la mula, secondo l'uso dei pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tener sempre dalla parte di fuori e a metter proprio le zampe sull'orlo. E Don Abbondio vedeva sotto di sé, quasi a perpendicolo, un salto, o come pensava lui, un precipizio. «Anche tu», diceva tra sé alla bestia, «hai quel maledetto gusto d'andare a cercare i pericoli quando c'è tanto sentiero». E tirava la briglia dall'altra parte, ma inutilmente.